Tutto nasce dal modo in cui sono state organizzate queste elezioni primarie. Le elezioni primarie sono a Bologna, ovviamente, in questo caso. Sono abbastanza confuse, la confusione da cui sono partite se la stanno trascinando per tutto il percorso, quindi anche il modo in cui i candidati si confrontano, i temi su cui si confrontano, gli elementi di cui sono portatori per quanto riguarda la composizione delle coalizioni a geometria variabile, quindi variabili sulla base del candidato, sono piuttosto confuse. Quindi sono primarie nate confuse che portano e producono confusione anche nel dibattito tra i candidati. Questo è l'elemento principale di queste elezioni primarie bolognesi. Poi ci sono ovviamente differenze più di sostanza in termini di politiche offerte, di programmi che si stanno elaborando i due candidati alle elezioni primarie, Lepore e Conti. Lei ha parlato delle coalizioni a geometria variabile, è il primo caso che succede in consultazioni primarie? Guardi, io studio le elezioni primarie da 15 anni, in Italia e non solo in Italia, e questa casistica bolognese non mi era mai capitata di osservarla. Sono primarie davvero anomale, primarie quasi anarchiche, perché non sono regolate in nessun modo se non in maniera molto abborracciata e in maniera ancora oggi deficitaria. E quindi sì, sono primarie anomale che non si sono mai osservate in Italia, con una geometria variabile del perimetro della coalizione. Il problema non è tanto che è variabile la coalizione, perché può variare successivamente sulla base del vincitore. Il problema è che è variabile a monte, cioè nel momento in cui gli elettori devono decidere se partecipare o non partecipare alle elezioni primarie. Quindi alcuni elettori, alcuni esponenti di partito che partecipano e poi che non si impegnano a rispettare l'esito del voto se non dovesse vincere il candidato sostenuto. Questo è un'anomalia delle primarie bolognesi. Potrebbe però avere anche un effetto trainante quello di andare a votare, come dire, il candidato o la candidata per avere un certo assetto della coalizione? Credo che alla fine prevalga anche questo tipo di aspettativa, e quindi è probabile che una parte dell'elettorato, ad esempio, di Lepore sia portato a sostenere Lepore nel tentativo di spostare la coalizione, di spostare il baricentro della coalizione un po' più a sinistra, come ci attendiamo, ma allo stesso tempo dall'altra parte è probabile che una componente più vicina a Isabella Conti, soprattutto l'area del centro, se non del centrodestra, possa spingere e possa sostenere Isabella Conti nel tentativo di spostare la coalizione di centrosinistra con un baricentro più verso il centro, perlomeno. Quindi credo che questo sia un elemento che farà parte della campagna elettorale anche delle elezioni primarie, non perché le elezioni primarie sono fallate da questo punto di vista, ma perché i due candidati sono di fatto portatori di due visioni diverse della coalizione di centrosinistra. Ieri il presidente della regione Stefano Bonaccini ha richiamato i due candidati perché, insomma, questa campagna è piuttosto litigiosa, entrambi lesinano colpi nei confronti dell'avversario e dell'avversaria. A volte viene da pensare che siano già competizioni per le elezioni, visto che una acrimonia così grande, insomma, a Bologna non l'abbiamo vista. Anche questo che conseguenze può portare su chi poi è chiamato a votare le primarie? Ma innanzitutto c'è un elemento di partecipazione, perché si sta scaldando la campagna elettorale, i due candidati hanno necessità di rinsaldare, di convincere, di mobilitare i propri ranghi e i propri sostenitori, e quindi anche l'innalzamento della temperatura della campagna elettorale, del confronto tra i due candidati, aiuta a costruire consenso attorno alle due candidature e quindi anche a promuovere una certa partecipazione, anche se una partecipazione negativa, divisiva tra i due principali candidati. Quindi quello che leggo in questi giorni, quindi il pericolo che un eccesso di tensione, un eccesso di negatività nella campagna elettorale possa demobilitare gli elettori, credo che non sia un'ipotesi che al momento non regge, anzi potrebbe suscitare, favorire maggiore partecipazione, proprio perché aiuta a mobilitare gli schieramenti dei due candidati. Tutto questo però poi ha un effetto nel momento in cui le elezioni primarie saranno concluse, e quindi sarà molto più difficile se la campagna elettorale dovesse essere divisiva o dovesse mantenere questo livello di negatività e di divisione tra i due candidati. Sarà molto più difficile dal 21 giugno in avanti, cioè dal momento in cui le elezioni primarie saranno finite, sarà più complicato appunto rinsaldare una coalizione, cercare di costruire un fronte unico dopo ovviamente una campagna molto lacerante e divisiva come stiamo osservando. Come giustamente diceva lei, però, questa è probabilmente il vero primo turno delle elezioni, il momento decisivo. Il centrodestra per il momento è assente e lo sarà, si presume, fino al 20 giugno in attesa di capire quale sarà il cagliato del centro-sinistra, e questo ovviamente mette il centro-destra in una situazione di difficoltà e di inferiorità sul piano appunto numerico, sul piano appunto delle possibilità di vittoria, e quindi tutta la partita al momento sembra giocarsi dentro il perimetro del centro-sinistra. Spesso Bologna è stata laboratorio anche nazionale, dai risultati delle primarie potranno esserci degli impatti anche sugli equilibri e su appunto, come dire, anche gli orientamenti del Partito Democratico, comunque della coalizione di centro-sinistra a livello nazionale? Ma credo di sì, perché almeno in queste elezioni amministrative Bologna si presenta come il tentativo di costruzione di una coalizione di centro-sinistra allargata perlomeno al Movimento 5 Stelle, soprattutto nell'ipotesi in cui Matteo Lepore dovesse vincere queste elezioni primarie. Sappiamo che questo è, anche se non in maniera esplicita, l'orizzonte di coalizione all'interno del quale sembra muoversi Enrico Letta, il Partito Democratico Nazionale. Se dovesse vincere Lepore, che è ovviamente il candidato sostenuto apertamente dal Partito Democratico, l'ipotesi di una coalizione più stretta tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico potrebbe diventare molto più che un'ipotesi, sostenuto ovviamente anche dall'esito delle elezioni bolognesi del prossimo ottobre. Quindi anche da questo punto di vista il voto amministrativo locale a Bologna è una pedina che si muove in un contesto anche nazionale.